Blog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Io dovevo fare una visita qui al Bambino Gesù, ok? Da Ravenna io vengo. E praticamente all'inizio la visita doveva essere nella sede principale, per cui io ho dei cognati, ma ce li ho ad Ardea, per cui avevo deciso di prenotare comunque un po' più vicino, vicino all'ospedale, per non dover far su e giù in continuazione da Ardea. Ho fatto la prenotazione, l'ha fatta mio cugino assieme a sua moglie, dicendo che mio figlio era un bambino autistico. È successo che quando mi sono presentata là ieri, la prenotazione premetto che è stata fatta 3-4 mesi fa, quindi è stata fatta un sacco di tempo fa, quando sono arrivata là ieri, praticamente lui quando ha cominciato a vedere mio figlio... Lui chi l'intende? Il gestore del bed and breakfast? Il gestore, esatto. Lo chiamo, sì. Non sono riuscita a parcheggiare, ci eravamo messi un attimo per scaricare i bagagli, lì ci hanno cominciato a mandare via i condomini e va bene, perché comunque mio figlio urlava, perché comunque abbiamo affrontato il viaggio, è durato tanto. È il racconto di una madre che mi è stato fatto proprio poco tempo fa, ieri sera, e che voglio riproporvi tale quale. Premetto subito, è la madre di un bambino autistico di 7 anni, quindi chi ha fastidio nel sentirmi parlare di questo problema, perché mi tocca anche personalmente, pensa ci sia un conflitto di interessi, cambi trasmissione, ne voglio parlare, è un problema grosso, è un problema importante. Questa madre, che viene da una città lontana, dall'Emilia Romagna, avete sentito, doveva fare una visita al figlio, un day hospital a Roma, una visita che occorre molto tempo anche per prenotarla, e quindi 3 mesi fa aveva pensato di prendere una stanza, un bed and breakfast, in zona dove era l'ospedale che avrebbe dovuto seguire la sua visita. C'è un problema, il bambino autistico naturalmente ha fatto un viaggio lungo, viene da lontano, c'era una sera piuttosto tempestosa a Roma, che poi era l'altro ieri sera, e quindi dava qualche piccolo segno di irrequietezza, piccolo o grande, comunque un ragazzo autistico, è un ragazzo che ha dei problemi, fa parte della sua caratteristica. Quando è scesa al bed and breakfast però ha avuto una sorpresa. Quando io ho chiamato il gestore che era a prendersi il tramezzino, mi ha detto arrivo con calma. Quando è arrivato mio figlio, mio marito ha fatto il giro con mio figlio perché gli hanno detto che era nel mezzo. Facendo il giro con mio figlio abbiamo trovato un posto macchina perché se ne erano andati. Lui mi ha detto che io lì non ci potevo stare col togliando, che avrei dovuto pagare perché loro non avevano le barriere architettoniche adatte per un bambino disabile. Guarda che mio figlio cammina, io devo scaricare la macchina e mio figlio si butta per terra comunque, non posso parcheggiare a 4 km di distanza, capito? E allora lui dal di lì, mio figlio, ha cominciato che, senza urlare, però si buttava per terra, no? Il tragitto dal parcheggio che era lì, sono stati 100 metri neanche, e si buttava per terra ma non urlava niente. Quando siamo arrivati sulla scala con i bagagli, che c'era mio cognato con me, lui ci ha cominciato a dire che lui non aveva... Situazioni di ordinaria vita di famiglia con un figlio autistico, chi ha vissuto situazioni del genere può chiamarmi questa mattina all'800240024. Vi capita di viaggiare con il vostro figlio, vi capita di scendere in un luogo dove avete prenotato una stanza, dove volete alloggiare, probabilmente non si rendono bene conto quale sia il problema di vostro figlio. Se aveste detto un figlio disabile, subito avrebbero pensato a un figlio che magari ha un problema di tipo fisico, ma vedere un ragazzo o ragazzino, in questo caso di 7 anni, che si comporta in maniera strana e regolare, crea qualche angoscia. La disabilità tipo psichico è l'esito moderno di quella che una volta veniva chiamata follia, e la follia, si sa, spaventa tutti. Ci ha detto che non era il posto adatto a noi, allora io gli ho detto ma non ce ne dobbiamo andare, lui mi ha detto sarebbe meglio. Perché avevate un ragazzo autistico, l'unica ragione era questa. Perché abbiamo un ragazzo autistico, esatto, perché l'autismo purtroppo a tanta gente non sa che cos'è, quindi vedono un bambino, un ragazzo così, e si spaventano. Ma il problema principale è che poi io ho chiamato mio cugino, e ci ha telefonato anche lei, ha detto che l'ha infamata, che gli ha detto che è una bugiarda, che era lei, gli abbiamo mandato un animale, delle cose, cioè, e lei ha detto oh ma sta scherzando. L'animale chi era, suo figlio? Ah, non lo so, sì, lei mi ha detto così, ha detto che ci ha fatto una gran litigata e ha detto che adesso gli teneva giù la capanna. E poi qui entriamo nell'alterco familiare, la mamma è stata costretta a ad andare con il figlio, perché in fondo a tutti gli effetti sono stati cacciati, detto che era meglio che non si fossero fermati, andata a un paese a 50 km da Roma, il giorno dopo è andata a fare il suo day hospital, il ragazzino era naturalmente agitato, ma rimane il grosso equivoco del fatto che, pur avendo detto che aveva un figlio autistico, quando poi il proprietario di questo bed and breakfast si è trovato di fronte a un autistico con le sue caratteristiche, perché come la persona che ha dei problemi di deambulazione sta sulla carrozzina, l'autistico ha dei problemi di comportamento irregolare, fa parte della sua maniera di essere, uno dovrebbe sapere di cosa si tratta e non dovrebbe soprattutto discriminarlo. Perché c'è una sorella autistica di 40 anni, so che cosa vuol dire, quindi lei gli ha ribadito che mio figlio era autistico, lui gli ha detto che non gliel'aveva detto. Allora lei ha detto che io comunque gliel'ho detto, però che cosa cambia? Scusa, ma perché uno non è obbligato a dire che è un figlio autistico? Lei gliel'aveva detto perché le ha detto, le ho chiesto dov'è l'ospedale, se era vicino, se era lontano, il chilometraggio, perché il bambino doveva recarsi in ospedale, ha detto, quindi lui lo sapeva, lui ha negato, ha detto che non era vero, che lui doveva dire che aveva un bambino così grave. Io ho capito addirittura ieri che le ha detto, mi avete mandato un mostro, io spero di aver capito male da lei. E ha detto che lui delle gravità del genere non sono volate parole pesanti, comunque rimane il fatto che non si era attrezzati per ospitare una gravità del genere. Noi ci domandiamo quale debba essere l'attrezzatura, la barriera architettonica da dover prevenire per poter ospitare un ragazzino di 7 anni autistico, che avrà potuto fare magari un po' di casino, ma poi passa il momento, comunque sia. Qual è la differenza fra un qualsiasi bimbo minchia che fa casino, fa capricci, che urla, che ha i suoi videogiochi a tutto volume, che non vuole mangiare a tavola? Fa parte della gestione di una clientela. Ma noi vi faccio sentire tutto il materiale che ho a disposizione, poi se volete fate dei commenti o se no non li fate per niente. Il numero è sempre lo stesso, 800240024. Alcuni volenterosi colleghi, quando hanno saputo di questa storia, ieri sera hanno cominciato a fare una serie di telefonate a vari esercizi simili. Questa è la zona di Roma attorno al Vaticano, quindi ci viene da pensare, sembra strano, tutti ci stiamo preparando al grande giubileo straordinario. Papa Francesco ha indetto recentemente un grande convegno sull'autismo, siamo tutti pronti all'accoglienza, ma arriva un bambino di 7 anni che si butta per terra perché è autistico e questo crea subito un problema. Giulia, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì. Io volevo intervenire dicendo la mia esperienza, che diversamente da quella della signora è stata sempre abbastanza positiva, devo dire. Io ormai ho un ragazzo autistico di quasi 16 anni, abbiamo nei primi anni soprattutto fatto lunghi viaggi in giro per l'Italia, da Napoli dove c'è un centro particolare, insomma un po' dappertutto, però ho sempre trovato gente accomodante che capiva la situazione, forse sono stata fortunata, non lo so, ecco. È un'esperienza positiva, ci apre il cuore. Invece diciamo i colleghi di Redattore Sociale hanno fatto un po' di telefonate, mandato un po' di fax, hanno anche ricevuto la risposta di persone, diteci bene qual è il problema, perché sai, noi abbiamo un locale con scale messe in un modo particolare, se poi si butta per le scale e succede qualcosa, insomma una totale inconsapevolezza di cosa sia un autistico, perlomeno del fatto che si possa gestire un autistico. È stata fatta anche una telefonata a quel bed and breakfast, abbiamo reso non riconoscibile la voce della persona che ha risposto, che ci ha confermato esattamente quello che noi pensavamo, il forte pregiudizio nei confronti di una persona con autismo. La struttura non è adatta, tutto qua è quello che le sto cercando di spiegare, voi mi dispiace se ci manca male, però si ricordi sempre che un bed and breakfast non è un albergo, quindi è un appartamento con altre camere, ci sono altre persone, e quindi io prima di tutto lo dico per voi, poi per me può pure venire, poi 10 minuti mi chiama il cliente, devo chiamare i carabinieri, mi domanda via, a voi vi metto in difficoltà, ci mettiamo in difficoltà tutti, perché lei ci rimane male, mi pare un po' una sciocchezza, no? Non crede. Io tento di prevenire. Cioè, l'autistico è equiparato a un comportamento criminale, o perlomeno colpevole. Io posso anche far venire il vostro figlio autistico, in questo caso gli era stato telefonato dicendo abbiamo un figlio autistico, possiamo venire nella sua ospitalità, dice beh, ma se non è come quello di ieri è successo questo casino, ha descritto esattamente quello che è accaduto, ma sai, in perfetta buona fede dice, se poi il bambino fa rumore e qualcuno chiama i carabinieri, poi vi devo mandare via e questo ci rimanete male. Ma come può pensare una persona che, se mai intervenissero i carabinieri, se un cliente protesta perché un bambino bambino autistico fa rumore in camera, dicano al bambino autistico vattene. Un bambino autistico, un bambino disabile, un bambino sotto protezione in questo punto di vista, un bambino che necessariamente avrà sempre una vita comunque diversa da quella degli altri. Parlare di questa cosa, le sto dicendo che, le ripeto, la situazione di ieri era tale che i genitori non potevano controllare, perché il bambino non poteva prendere il farmaco, quindi il bambino urlava, mi ha detto la madre, detto dalla madre, urlava dalle 6 di pomeriggio fino a quando non si addormentava. A paese loro che li conoscono chiamano i carabinieri, anche quando succede capisce bene che magari lei mi dice no, la situazione non è questa, il bambino è tranquillo, è silenzioso, non fa... Io ho l'esempio di ieri, poi ripeto, immagino che ogni tipo di autismo sia un tipo di autismo diverso da bambino a bambino, immagino, no, chiaramente, di una cosa del genere, quindi poi io glielo dico sì, prima, nel senso che ogni tipo di autismo è diverso agli altri, ma non vedo perché uno dovrebbe mettere avanti i carabinieri come una sorta di spauracchio a un genitore che chiede di poter alloggiare con un figlio autistico. Anna, buongiorno. Buongiorno. Io volevo raccontare un'esperienza recentissima che ho vissuto dovendo organizzare la comunione per mio figlio. Fra gli invitati abbiamo degli amici con un bimbo autistico e abbiamo chiesto, diciamo, una zona un po' più riservata del ristorante per garantire più autonomia al bimbo e anche prossima all'uscita fuori dove c'è un giardino. Ma è giusto, poi anche meno stress, perché la folla, il rumore, certo, può dargli fastidio. Perfetto, era esattamente questo il nostro intento. Ci è stato detto di sì, tra l'altro abbiamo chiesto anche un menù per celiaci perché il bimbo fa un'alimentazione per celiaci. Mi sembra doveroso. E ci è stato detto di sì per tutto. Quando poi siamo andati a definire dei dettagli, diciamo, personali per la comunione, abbiamo scoperto che eravamo a ridosso di altre 70 persone, abbiamo fatto un po' di proteste e ci è stato detto che purtroppo il commercio è così, bisogna far quadrare i conti e che quindi le nostre richieste, che in un primo tempo c'erano state tutte accordate, non potevano essere soddisfatte. Abbiamo dovuto stralciare il contratto con difficoltà, trovare, cioè, tutto per mettere un bambino autistico un po' defilato, sì, rispetto alla folla, sì, fargli un tavolino, sì, con altri amici magari. No, noi avevamo chiesto, conoscendo anche la, diciamo, la struttura da tempo, eravamo clienti abituali, avevamo chiesto una certa, io avevo proprio individuato la zona che mi sembrava ottimale, vicino al giardino, nel momento in cui il babbo voleva portarlo fuori, la mamma, era tutto tranquillo per tutti. Mi era stato detto anche grazie ai nostri amici che ovviamente hanno queste difficoltà molto spesso e questa cosa non va bene. E poi a conti fatti invece è andata così. Lei mi conferma, sono... però quello che, diciamo, era una nostra impressione all'inizio di questa trasmissione, che in realtà è molto più difficile raccontare, descrivere, far capire le esigenze di un figlio autistico piuttosto che un figlio con altri tipi di problemi. Ci fermiamo un istante, poi in seconda parte parleremo con una persona che conosce bene questo problema. Monge, crocchette e patè per cani e gatti con tanta carne fresca italiana vi presenta Melog, cronache meridiane. Oggi parliamo della difficoltà nell'esporre a titolari di pubblici esercizi, vuoi ristoranti, vuoi bed and breakfast, vuoi anche alberghi, luoghi di accoglienza, il fatto che si abbia un figlio autistico. I genitori di un figlio autistico già sono fortemente limitati nei loro spostamenti, ma hanno sempre spiegare cosa ha il suo figlio. Qualche risposta che mi conferma il mio sospetto. Nicoletti, facile per te, la fai facile a parole, se tu avessi un ristorante capiresti. Qualcun altro dice nemmeno per i cani danno queste risposte. Dire queste persone mi fanno vomitare poco, ma come si fa? Pensate, se qualcuno avesse rifiutato un cagnolino cosa sarebbe successo? Ha ragione il ristoratore, poi un'altra persona dice e via dicendo. Beh, insomma, mi sembra che siano sufficientemente comprensivi del fatto che chi abbia un esercizio pubblico certi problemi non è detto che debba gestirli. Luigi Mazzone, buongiorno. Buongiorno a tutti. Luigi Mazzone è un neuropsichiatra infantile, lavora al Bambino Gesù, si occupa di autismo da anni, ha anche recentemente scritto un libro proprio per le famiglie, Un autistico in famiglia, edizioni Mondadori. Su questa storia, Luigi, che tu mi hai segnalato, quindi te ne do la paternità, il tuo punto di vista. quello che innervosisce appunto è questa cultura medievale cristallizzata sostanzialmente su falsi miti. Il falso mito in questione è quello che l'autistico sia necessariamente agitato, necessariamente pericoloso, necessariamente aggressivo. Questo è veramente un tabù da sfatare, perché le persone autistiche non sono nulla di tutto questo che ho detto. Le persone autistiche sicuramente, che hanno difficoltà a decodificare dei messaggi sociali, possono di conseguenza entrare in un'ansia pervasiva e, non capendo quello che sta avvenendo attorno a loro, iniziare ad agitarsi. Ma non è l'autismo non uguale aggressività, non è detto che sia un bambino aggressivo, un bambino agitato. Ma 7 anni non credo sia un pericolo fisico per nessuno. No, dispiace, perché poi insomma la mamma e i genitori erano venuti da lontano, avevano programmato questo hospital tempo addietro, per cui anche la valutazione è stata difficoltosa. Il bambino era scosso? Sì. Senti, ma come deve essere un carico e un onere sociale di un albergatore allestire dei sistemi per evitare le barriere architettoniche, mettere una rampa per le carrozzelle, mettere gli ascensori di una certa metratura, mettere i bagni specializzati? Quindi deve prendersi questo onere, perché è un onere sociale. Ci sono persone che vanno, viaggiano e hanno dei problemi fisici, lui deve pensarci. Perché non deve prendersi anche l'onere sociale di pensare che abbiano lo stesso diritto anche le persone con una disabilità di tipo psichico? Sì, io sono d'accordo, sicuramente è un dovere umano, sociale, cioè non so se per legge, sicuramente per legge magari non devi fare semplicemente la barriera architettonica, ma nel momento in cui ti rivolgi al pubblico e decidi di fare un'attività col pubblico, che sia un B&B, un albergo, un ristorante, chi che sia, a quel punto esponi la tua attività a tutti, e tutti significa tutti, senza esclusione e senza pregiudizi, per cui è giusto che ci sia anche una formazione umana nell'accordo delle persone che possano avere delle difficoltà anche psicologiche. Se no, scusa, ci sarebbe una discriminazione profonda. Chi ha fatto delle ottime leggi per imporre dei sistemi di abbattimento delle barriere architettoniche pensa solo a una disabilità di tipo fisico, e gli altri non hanno diritto. Possibile che non ci sia una maniera per in qualche maniera semplificare la vita anche a chi gestisce questo tipo di disabilità? Quale potrebbe essere una risposta? Una sorta di campagna culturale, un vademecum per spiegare come comportarsi quando c'è un figlio autistico, o dare una sorta di premio, di bollino di qualità per gli esercizi che si dimostrano capaci di gestire anche questo tipo di eventualità? Sì, no, quello che sicuramente innervosisce è il pregiudizio che è successo in questa storia, nel senso che poi può avvenire che il ragazzo magari può disturbare la notte, magari a luna di notte, se continua a urlare, giustamente ci sono anche degli altri ospiti che devono dormire, a quel punto ti intervieni. Quello che dà fastidio a questa storia è appunto il pregiudizio, cioè a priori io immagino già che tu disturberai, ecco, questo è intollerabile sostanzialmente. E per rispondere alla tua domanda, ci vorrebbe una campagna culturale, poi non lo so se questa campagna culturale può essere sponsorizzata da appunto dei bollini particolari o degli incentivi particolari, questo sinceramente non è mio compito, non lo so, però il pregiudizio sicuramente innervosisce parecchio. Beh, io diciamo che sarebbe interessante se, ascoltando questa trasmissione, qualche federazione, associazione, ente che gestisce comunque gruppi di albergatori o di proprietari di bed and breakfast dimostrasse un'apertura. Io penso che poi gli strumenti per suggerire a loro le metodologie di trattamento o di accoglienza, il dottor Mazzone le avrebbe senz'altro, avendo scritto un manuale su questo. Ci vorrebbe però un momento di apertura per dire: beh, noi del nostro gruppo, della nostra associazione, siamo pronti anche ad accogliere comunque i clienti autistici, diteci cosa dobbiamo fare. Francesco, sì, buongiorno. Io mi occupo di disabilità intellettiva per lavoro, lavoro in un centro, in un piccolo paesino, e questo centro sorge da diversi anni. Devo dire che la cittadina è molto molto attiva e molto molto solidale con i nostri ragazzi, li chiamiamo così. La cosa che ancora dà fastidio, che vedo diciamo in generale, è il pietismo, che secondo me non va bene, cioè secondo me è una cosa che la pacca sulla spalla, il poverino è qualcosa che non ha non è in linea con sì, qua però se mi permette Francesco è esattamente l'opposto, nessuno dice poverino, gli dice piglia tuo figlio, vattene perché ci rompe le palle, no, questa è la traduzione. La nostra spesa non l'abbiamo avuta di queste, fortunatamente, sì, ma se voi dovreste montare una volta in un autobus e andare a fare una gita per vedere il Santo Padre il mercoledì all'udienza, potreste capitare in un posto potremmo, tipo questo? Potremmo, certo, dico, io racconto la nostra esperienza che fortunatamente è positiva in questo senso, cioè non c'è capitato, potrebbe capitare, sarebbe una cosa gravissima. Mi limito ad osservare il pietismo, che secondo me è una cosa che dovremmo crescere come cultura, perché il diritto sono il diritto di tutte le persone, compresi i diritti delle persone. Voi lei sa benissimo che esiste il diritto del disabile, che è qualcosa che aggiunge proprio come la piena cittadinanza delle persone, quindi insomma. Sì, ma io più conosco questo tipo di situazione, più rendo conto che in realtà al di là delle leggi, al di là dei buoni propositi, al di là delle manifestazioni, siamo reduci da un 2 aprile in cui si è acceso di blu tutta Italia, ci sono stati programmi televisivi, però dopo emergono episodi come questi, quindi bisogna ancora fare molto. Mi scrive un ascoltatore: al ristorante si va per piacere. Sì, ma per piacere hanno diritto di andarci tutti, non è che ci possono essere persone che non possono avere il piacere di andare al ristorante. Elisabetta. Buongiorno, io avevo telefonato perché io non ho un figlio autistico, ma mio figlio è iperattivo. E che comunque, può disturbare a qualcuno perché Sì. Adesso quindi? È più grande, quindi si comporta meglio, però volevo semplicemente dire che la diversità non fisica ancora adesso è poco accettata, cioè se c'è un segno esterno tipo sulla carrozzella piuttosto che, non so, le stampelle, forse un po' di più viene accettato. Quindi ma anche il suo bambino che è iperattivo, che poi è una cosa del confronto all'autismo anche molto lieve, comunque sia ha delle difficoltà, ha trovato le difficoltà. Delle difficoltà, sì, perché lui si agita magari perché va in ansia in certe situazioni, e quindi mio figlio è affettuoso, per esempio, da certe persone non viene assolutamente accettato, anche cominciare dai compagni di classe, che magari lui abbracciava all'elementare così per conoscerli meglio, non so, veniva assolutamente non accettato, e non c'erano i genitori a mediare questa situazione, cioè anche i genitori dicevano che era maleducato, che non sapeva comportarsi, insomma queste cose abbiamo vissuto, ecco. Quindi ringrazio, saluto intanto Gigi Mazzone, concludo dicendo che in realtà molto cammino ancora bisogna fare, molte opere di convincimento e di cultura nei confronti della disabilità tipo psichico, come vedete c'è sempre una colpa dei genitori, una colpa della famiglia, non si vuole accettare che qualcosa con cui si potrebbe anche nascere, tutti noi potremmo nascerci. A domani.